you go to school yesterday? The eagle swept along the street. The wind swept along the city. Penso solo che mi riesce meglio andare via dalla confusione. Penso solo che mi riesce meglio. Did you go to school yesterday? The eagle swept along the street. The wind swept along the city. Prendo un po' di tutto, lascio indietro il resto. Accetterai un consiglio. Accetterai un consiglio. Everybody eats well at his table. Everybody eats well at his table. Sapendo che non sbaglio un sentimento denso. Sapendo che non sbaglio un sentimento denso. Two tables of aspirin speech addressed to a large audience. In fondo me ne infischio del tuo comportamento. He introduced me to the lady. Passo un po' il mio tempo, gioco di metallo. Here's to our guest. Quando me ne infischio. Here's to our del guest. Del tuo comportamento. Passo un po' il mio tempo, gioco di metallo. Parole troppo secche. Gioco di metallo. Visioni artificiali. Gioco di metallo. Gioco di metallo. Da questa confusione un sentimento denso. Prendo un po' di tutto, un sentimento denso. Accetterò un consiglio, sapendo che non sbaglio un sentimento denso. Un sentimento denso. Il fondo di un fisco del tuo comportamento. Passo un po' il mio tempo, gioco di metallo.